a forza, solo tu mi basti, solo tu consoli, solo tu rialzi. Alleluia, sei colui che è. Alleluia, Yahweh. Alleluia, sei colui che è. Alleluia, Yahweh. Solo tu, sapienza, solo tu, amore, solo tu, giustizia, solo tu, certezza. Alleluia, sei colui che è. Alleluia, Yahweh. Alleluia, sei colui che è. Alleluia, Yahweh. Solo tu, la croce, solo tu, la vita, solo tu, la luce, solo tu, la pace. Alleluia, sei colui che è. Alleluia, Yahweh. Alleluia, sei colui che è. Alleluia, Yahweh.